and you as its pistol. Surrounded, can you imagine? Kannst du es dir vorstellen? Saw your Visa card and took a trip down, down. Thank you. 2015 dell'era cristiana, l'insensatezza degli uomini trionfa. Centinaia di bombe atomiche devastano i 5 continenti. Terrorizzati dalla carneficina, i pochi scampati cercano rifugio nel sottosuolo. Da quel momento inizia l'era del dopobomba, della seconda umanità. Un secolo dopo, alcuni uomini, sofferenti alle leggi e all'ordine che la nuova umanità si è dati, scelgono liberamente di tornare a vivere sulla superficie. Nasce così una nuova umanità, quella dei primitivi. Le due comunità da tempo non hanno più contatti. I nuovi umani disprezzano i primitivi ritenendoli dei selvaggi. I primitivi sfuggono ai nuovi umani perché considerati nemici. Questa storia ha inizio sulla superficie della Terra nell'anno 225 dopo la bomba. We'll be right back. Thank you. desires. Jesus, oh Jesus, was an alien. Knowledge. Religion. Slav con tu cuzza, ne chiese un tantino. Disse lo grillo, cosa ne vuoi fare? La furicuzza mi può maritare, maritare. Disse lo grillo, ti sposerò io. La furicuzza sono contenta anch'io. Ma quando furo per darsi il lavello, casca lo grillo e si spacca il cervello. Cervello. Era le sette, ero di là dal mare. Si sentì dire che il grillo stava male. Era le otto, ero di là. Si sentì dire che il grillo era morto, morto. Wie wär's mit etwas Musik? Panorama 80. Panorama 80 elektronische Radio. Was willst du sonst noch hören? Thank you. kommen bei uns. So Musikfabrik, Manufaktur mit Elektronik. Die Hände berühren die Tastatur, komponiert in Null und Dur. Unsere Maschinen klingen Rhythmusmelodie. Musik von unseren Maschinen tun und takt in Harmonie. Richtig. Sequenz. Since I've translated and spoken aloud the first of the demon resurrection passages from the Book of the Dead. Dead. Dead. Dead. Dead. The slightest idea!

Thank you. Cover girl, cover girl, cover girl. Welcome to the world of electronic music.